Italia in controluce. E il pomeriggio di Radio 24, come sempre Daniele Biacchessi in conduzione per questo programma che si chiama Italia in controluce, che va in onda da oltre 2 anni e che vi racconta giorno dopo giorno in 2 edizioni l'Italia. Lavoro, volontariato, criminalità, voglia di riscatto, disagio e impegno sociale. I giovani italiani raccontano se stessi attraverso il cinema. La storia viene raccontata Italia in controluce da Maria Luisa Pezzali. Vediamo un po'. Laurea in economia. Normale. Master. Normale. Stage vari. Normale. Parla 3 lingue. Normalissimo. Bene, noi per la nostra azienda cerchiamo personale qualificato. Ma soprattutto, come recita il nostro motto, che abbia qualcosa in più. Alla fine leggo volontario. In che senso, mi scusi? Era il cortometraggio Qualcosa in più, vincitore del concorso Elaborazioni, promosso dalle ACLI e finanziato dal Dipartimento della Gioventù. Un percorso creativo di partecipazione, formazione e impegno sociale che si è sviluppato attraverso l'attivazione di 8 laboratori in altrettante province italiane. Milano, Trieste, Roma, Napoli, Cagliari, Bari, Cosenza e Catania, laboratori che hanno prodotto 8 cortometraggi per raccontare il disagio e la voglia di riscatto. Cortometraggi realizzati, diretti e interpretati da 160 giovani tra i 15 e i 30 anni, espressione di realtà sociali e culturali diverse. Abbiamo puntato su volontariato e lavoro, ci dice Marco Bonaccorso, responsabile giovani ACLI Catania, coordinatore del laboratorio che si è aggiudicato il primo premio. L'esperienza è stata forte perché oltre alla realizzazione materiale del cortometraggio c'è stata tutta una fase di incontri, di riflessioni su questi temi importanti, il tema del volontariato, il tema del lavoro, che in Sicilia è particolarmente sensibile, no? C'è stata una bella risposta da parte di tutti i giovani perché si sentivano parte attiva, no? Nella ricerca di una soluzione attraverso l'utilizzo del volontariato. La soluzione, intendiamo una soluzione per una crescita, una rinascita della nostra società, della nostra economia, tramite una prassi solidale, tramite appunto lo strumento del donare la propria attività per far crescere la propria condizione e la condizione di chi ci sta accanto. Milano racconta storie di lavoro e impegno giovanile anche in un quartiere difficile come Quartoggiaro. Napoli svela la normalità di una città turbata dalla criminalità. Roma mette in evidenza la falsità di certi colloqui di lavoro. Prima non c'era un albero, adesso ci sono 400 alberi, cioè questo penso che sia un cosa di merito. Prima non c'era un gioco, adesso c'è un parco giochi, prima non c'era strutture. Questo è un quartiere popolare e nel popolare non si è mai ringiovanito tanto, si è invecchiato tanto. Sicuramente il problema dei giovani è un problema a Quartoggiaro molto pesante. Io sono Eleonora, ciao. Allora, questo è il laboratorio di giocoleria. C'è una cosa bellissima che si chiamano bola. Le vedete? Quelle che si fanno. Sì, che sono molto più belle della pallina. Fate una bella pallottola. Sono due. Inizia con uno. C'è un gol qua, c'è un altro gol qua. Mi lascia stare, Tony. Oh! Tony, non provo mai Tony, o meglio amico mio. Non ho combinato come te. E mi nava a me. Ehi, quando vado un po' da lì, ma è duro casca. Che bravo è nemico. Ma pensi mi fa paura? Beh, vorrei come fai tu. Ale, che c'è? Aiuto! Aiuto! Aiuto! È successo? È successo? È molto innocente. È a così che muore un innocente. Noi giovani un futuro così non lo vogliamo. Il suo curriculum. Non si può dire che non sia impegnato. Ha un percorso di studi interessante. Come lo ha scelto? Devi studiare, capito? Dovevi studiare! Se studi diventi qualcuno, se no non sei niente! Studia! Beh, sempre stata la mia passione, da quando riesco a ricordare. Interessante. È importante avere a che fare con gente che sa quello che vuole. Io lo so quello che voglio, sempre. La sincerità è l'elemento che li unisce, ci dice il regista Giovanni Veronesi, presidente della giuria. È l'estrema sincerità con cui venivano affrontati dei temi molto importanti, tipo l'immigrazione, la droga, la microcriminalità. La sincerità, la semplicità con cui i ragazzi affrontano questi temi, cioè sono basici i ragazzi, non avendo sovrastrutture, non sapendo neanche bene fino in fondo l'argomento che vanno a trattare, lo trattano con l'anima, lo trattano con il cuore, quindi sono molto basici, ma questo è bello da vedere per chi invece è abituato a cercare di rivoltare come un calzino tutte le situazioni. Invece in quel caso lì un bagno di purezza, di semplicità è stata una cosa importante. E così Trieste interroga i giovani sul senso del dialogo e del confronto quotidiano tra culture diverse. I volontari di Cosenza diventano angeli nel fango. Da Bari arriva un richiamo alla legalità, monito delle nuove generazioni alla società. E Cagliari ci parla ancora di integrazione. Certe persone arrivano qua con il concetto: no, io non posso mangiare roba italiana. Ma no, tu la provi e dopo se non ti va, non ti va. Un'altra cosa, non devi guardare un cibo così, magari ti pare, anche i nostri cibi, non tutte le cose nostre riesco a mangiare, però prima di dire non categoricamente, uno va ad assaggiare. C'era stata un'iniziativa che il comune vorrebbe riprendere adesso, che è anche quella del menù etnico, nelle scuole, nelle mense, nei servizi integrativi scolastici, 2-3 volte l'anno proporre ai bambini un menù. Ricordo che qualche anno fa è stato proposto il menù serbo, il menù cinese, per aiutare i bambini a, come dire, conoscere attraverso cose tipiche della loro vita quotidiana, come il cibo, e anche cose che uniscono, perché appunto a tavola, cioè la tavola da sempre, insomma, unisce le persone. Il cibo italiano, specificamente triestino, io mi ci sono trovata bene, mangio quasi tutto. Il pane è, diciamo che è il cibo che accomuna tutti i popoli del mondo, che uno vada in Oriente, in Occidente, in Nord, Sud, il pane si trova dappertutto. Cosenza è una città, come si dice, è calma, è bella, ci sono poche persone che sono abituate a convivere con gli stranieri. Ma anche se sono da poco in questa città, io ancora mi sento un straniero, non la sento ancora a casa mia. Legalità e giustizia vuol dire anche però libertà, quella libertà che vi deve permettere di alzare la testa. E per alzare la testa è bene che voi raccontiate i vostri errori, le vostre esperienze, per non ripercorrerle più e per permettere anche alla società che vi circonda che questi errori di gioventù in qualche modo non possano essere più emulati da nessuno. Che cosa volete? Attento, coglione! Aia! Perché? Non era la prima volta che facevamo una cosa del genere. Era quasi diventata un'abitudine. Quella testa di cazzo però non aveva capito che ogni cosa ha un prezzo. Tim! Sì, vieni! Ciao, finito? Quanto ci metti? Un attimo, mi metto questa. Tu sei pronto? No. Dai, tanto abbiamo usato di tempo. Ho fame. E poi devo ancora cambiarmi, lo sai. Dai, ho finito. Ma ok. Ti vedo emozionata. Sì, un po'. Insomma, sai come potrei incontrare qualcuno del gruppo turbo. Sapevamo che i giovani sanno raccontare questi temi senza retorica, spiega Andrea Olivero, presidente delle ACLI. I ragazzi in qualche modo raccontano se stessi, raccontano quello che è il proprio quartiere, la situazione di disagio che vivono, ma con un messaggio, con un'analisi critica, senza retorica ma al tempo stesso con un'elaborazione di pensiero, ecco, non in maniera leggera. La voglia di andare a cambiare la realtà parte dal fatto che si è convinti di poterla effettivamente cambiare. Credo che questi cortometraggi ci dicano che, a differenza di quanto spesso si immagini, i giovani italiani di tutte le parti, peraltro d'Italia, hanno in realtà la voglia e anche la convinzione di potercela fare. Questa puntata è in podcast radio24.it. Siamo su Facebook, pagine gruppo, Twitter, blog, praticamente tutto quello che è possibile realizzare in termini informatici. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24 con nuove storie.